Mi vedi normale tu? Normalissima, perché? Meno mi male. Sto perdendo qualcosa? Ti no. tremano un po' le gambe, le mani? Mi tremano un po' le gambe. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Popliteo, happy birthday to you. E allora, eccoci qua. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti da Deborah Rosciani. Questa mattina non abbiamo con noi Nicoletta Carbone, la salutiamo subito con grande affetto. Questa mattina si laurea la sua ragazza Carolina, quindi tanti auguri ad entrambe, poi ci faremo raccontare anche lunedì com'è andata. Ma noi di che cosa parliamo oggi? Che aria tira a casa nostra? E ce lo chiediamo nell'ultima puntata della settimana di Cuore e Denari. Intanto c'è ancora odore di IMU sulla prima casa, dopo che il Consiglio dei Ministri ha deciso ieri di rinviare il varo del decreto per l'abolizione della seconda rata, che il governo si è comunque ufficialmente impegnato a cancellare, ma se lo farà lo sapremo solo martedì prossimo. L'imposta resta da pagare per le altre tipologie di abitazione, quelle diverse appunto dall'abitazione principale. La consulta nazionale dei CAF, i centri di assistenza fiscale, ieri ha lanciato l'allarme. Non abbiamo le delibere dei comuni, che aliquote applichiamo per i saldi? Ne parleremo stamattina, allora cominciate subito a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. A proposito di casa, è sempre bene fare attenzione anche all'aria che tira. Non è certo migliore di quella che respiriamo fuori. Le nostre abitazioni spesso sono troppo riscaldate, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. E questo è un fattore di rischio per le malattie da raffreddamento. E poi ci sono nemici che non vediamo e non sentiamo, ma subdolamente sono lì. Gli allergeni invisibili, acari, muffe. E allora, se avete quesiti da sottoporci anche su questo aspetto, i nostri consulenti, più tardi ve li presenterò, sono già pronti per voi. Potete inviarci sms, messaggi al 349 238 6666, ma anche su Facebook e su Twitter potete scriverci. Vi facciamo subito una domanda per giocare un po' insieme. Raccontateci che aria tira a casa vostra oggi, se siete a casa, o che aria avete lasciato uscendo per le vostre commissioni o per andare al lavoro. C'è il profumo del sugo che avete preparato per la pasta asciutta o che state preparando? C'è un po' d'aria di tensione per qualche piccolo battibecco familiare? State cambiando l'aria e fate entrare quella fredda dell'inverno ormai alle porte, peraltro già a Torino stamattina sappiamo che nevica, ne parleremo anche tra qualche istante. O c'è un'aria nuova perché siete in una casa nuova e vi siete appena trasferiti. Quindi scriveteci anche tutto questo se volete. I canali per interagire con noi li conoscete bene. 800 24 00 24 per parlare anche di tanti temi questa mattina. E allora partiamo. Salva Danaio. Il rinvio è esclusivamente dovuto a fatto formale. Come ho sempre detto, la seconda rata dell'IMU non sarà pagata dalle famiglie, dai cittadini italiani, perché questo è l'impegno che da tempo abbiamo preso e che sarà rispettato. Per questi motivi si sposteranno la tempistica dei pagamenti degli acconti dal 30 novembre al 10 dicembre, proprio per dare agio a tutti coloro che devono operare in questo campo a farlo senza dover fare delle corse, ma appunto il complesso dei provvedimenti legati a questa vicenda ha reso necessario questi passaggi. E allora questo lo avrete riconosciuto senz'altro, perché lo sentiamo parlare molto spesso pubblicamente. Era il Premier Letta ieri al termine del Consiglio dei Ministri che ha deciso di rinviare il varo del decreto per l'abolizione della seconda rata dell'IMU sulla prima casa. Secondo il Premier Letta, lo avete sentito, è stato un rinvio formale. Abbiamo deciso di chiudere martedì l'iter del decreto sulla cancellazione dell'IMU. Martedì allora sarà approvato questo provvedimento e la seconda rata dell'IMU non sarà pagata, promesso, perché questo è un impegno da tempo preso. E per gli acconti conti fiscali, ha anche chiarito, si sposta la tempistica dal 30 novembre al 10 dicembre. Ma questo, come si sa, è il provvedimento sulla prima casa. Ci sono tanti proprietari che invece il saldo IMU devono versarlo. E come? Allora, quali sono gli aspetti sul saldo che non sono ancora chiari? In che situazione viaggiano in questo periodo i comuni? Hanno fatto tutti i calcoli, a parte l'abitazione principale? Come viene disciplinato tutto il resto del mondo immobiliare per quei proprietari che queste imposte invece devono versarla? 800 24 00 24, cominciate subito a prenotare i vostri interventi e questa mattina cercheremo di chiarirvi le idee per quanto ci sarà possibile con i nostri ospiti. Saluto e ringrazio un gradito ritorno, quello di Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Da una Torino innevata, se non sbaglio. Sì, beh, noi siamo un pochino limitrofi a Torino, però stava nevicando ieri sera copiosamente, questa mattina il tempo, diciamo, si è girato a pioggia. Tra l'altro, a proposito dell'aria che circola nelle nostre case, ma anche fuori, è stato anche abbastanza caldo fino a pochi giorni fa, per cui, insomma, questo cambiamento ce lo dovevamo aspettare. Saluto e ringrazio anche il dottor Renzo Radicioni, segretario della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, naturalmente i nostri esperti a vostra disposizione e già potete immaginare, sono arrivate già appunto molte richieste di intervento, molte richieste di chiarimenti da parte dei nostri ascoltatori, sia al 349-238-6666 sia all'800-24-00-24. Allora, comincio con Mirko Mion, perché questa mattina presto ha già cominciato a inviare messaggi su Twitter per promuovere, oltre alla sua partecipazione a Cuore Denari, anche un messaggio che peraltro è anche quello che è stato ieri divulgato dalla Consulta Nazionale dei CAF. C'è grande confusione normativa per i contribuenti, è necessario consultare, lei dice, Mion, oltre 4.000 siti dei comuni in 7 giorni. I cittadini sono confusi e cercano risposte. Ci spiega perché? Beh sì, perché oggi come oggi tutti i nostri associati, quindi tutti i geometri fiscalisti, sono alle prese sì con la lettura di questi circa 4.600 comuni che hanno deliberato, diciamo, già ad oggi le aliquote che andranno ad applicare, però insomma questa è una porzione, perché è circa il 56%, quindi questi 4.600 comuni, mentre mancano l'appello tutti i restanti comuni, quindi un altro 45%, circa 4.000 comuni, che avranno tempo di deliberare sino al 30 di novembre, così come previsto dal DL102, e la possibilità di pubblicare le delibere sino al 9 di dicembre. Beh, mi sembra facile comprendere come metta in difficoltà, in ginocchio tutto il sistema di coloro che danno supporto al conteggio corretto del contribuente, avendo a disposizione soltanto 7 giorni, di fatto poi 5 lavorativi, perché abbiamo sabato e una domenica in mezzo. Certo. Quindi soprattutto perché precedentemente tutte le delibere erano, come dire, convogliate all'interno del sito del Ministero, mentre di nuovo il decreto legge prevede che le delibere possono essere pubblicate sul sito del singolo comune. Io francamente ritengo che sia praticamente impossibile riuscire a monitorare. Quindi tutti ci sono, i comuni in un tempo. Come dire, dei problemi proprio di ordine pratico da parte anche da chi fa consulenza in questo senso. Senta, ci spiega per quale motivo, per gli ascoltatori che non lo sanno, i comuni sono così in ritardo a deliberare le aliquote, e chi l'ha fatto invece perché ha potuto farlo così rapidamente nei tempi previsti dalla legge? Beh, chiaramente i comuni hanno atteso, come dire, che l'eterno cantiere aperto della casa trovasse delle risposte anche riguardo a quelle che sono le altre tassazioni applicate sulla casa. Abbiamo sentito una girandola di acronimi nell'ultimo periodo, dalla TASI, TISE, TRISE, l'ultima era il TUC, che hanno fatto sì che mancasse, come dire, una chiarezza globale al comune per poter deliberare, per poter, come dire, creare un bilancio capace di sostenere poi tutte le spese correnti. Che range hanno, ecco, tra l'altro, i comuni? Sa perché glielo chiedo? Perché già alcuni ascoltatori segnalano, come fa la nostra Alessandra al 349-238-6666, Brebbia, piccolo a meno comune sul Lago Maggiore, tanto per non sbagliare, l'aliquota IMU al massimo, e vai tanto chi ha le seconde case per definizione ricone da usare come bancomat, scrive l'ascoltatrice. Che tristezza. È così, per non saperne leggere né scrivere, in attesa di chiarimenti normativi, in tanti comuni che hanno voluto deliberare l'hanno fatto tutto al massimo, Mion? Beh, diciamo che prevalentemente sulle seconde abitazioni sì, si sono portati tutti verso l'aliquota massima, proprio come diceva l'ascoltatrice, per non commettere, come dire, errori di calcolo. Effettivamente c'è una tendenza ad utilizzare ormai il massimo dell'aliquota proprio per riuscire a mettere i conti in ordine. Teniamo conto che poi c'è un capitolo aperto anche per i comuni riferito ai trasferimenti compensativi, mm-hmm, che finora sono stati calcolati sulla base dell'aliquota 2012, ma i sindaci chiedono che rivengano calcolati, tant'è vero che ieri i due nodi che hanno, come dire, fatto slittare all'interno del decreto, il varo del decreto sulla cancellazione, sono uno quello sui terreni agricoli, esatto, dove viene chiesto a gran forza da parte del ministro Di Girolamo. che vengano esentati, come sono stati esentati per la prima rata, tutti i terreni e i fabbricati rurali agricoli, che però è un capitolo da 400 milioni. E poi abbiamo un altro capitolo da 500 milioni, appunto, sul trasferimento. Quindi i comuni tendenzialmente cercano di mettersi al riparo. E queste sono, insomma, come dire, le questioni ancora aperte che il governo deve affrontare in questi giorni per dare delle risposte chiare, almeno come ieri Letta ha promesso di fare nel Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Andiamo invece ai commercialisti per capire per loro quali sono invece le questioni aperte. Dottor Radicioni, torno a lei. Appunto, abbiamo spiegato il tema dei terreni agricoli, manca appunto un provvedimento perché per questo ambito deve essere trovata una copertura da 400 milioni di euro. Ci sono poi appunto casi controversi che invece ancora riguardano i chiarimenti che sono arrivati sempre un po' con il contagocce in questi ultimi mesi sul tema dell'abitazione principale. Ci sono già molti ascoltatori appunto che ci scrivono e che ancora contestano questo fatto. Per esempio, c'è chi ha una prima casa ma magari per ragioni di lavoro deve andare a lavorare in un'altra parte del nostro paese, deve prendere la sua casa in affitto, e sull'abitazione principale, proprio per il fatto che abita fuori e paga un affitto, appunto deve pagarci l'IMU come se fosse una seconda abitazione. Ma non sono solo queste le incongruenze, ce ne ricordiamo ancora un po', Radicioni, quali altri sono? Assolutamente, diciamo, possiamo ricordare che giustamente, come diceva lei, le incongruenze relative sicuramente alla dimora che devono avere i parenti all'interno dello stesso comune, della stessa abitazione. Se noi abbiamo ad esempio una famiglia in cui i due coniugi hanno due case all'interno dello stesso comune, ovviamente potranno beneficiare di quelle che sono delle agevolazioni per l'abitazione principale solo ed esclusivamente soltanto su quella dove hanno la dimora abituale. Lo stesso caso si potrebbe trasferire nel caso in cui abbiamo due coniugi con un figlio, dove il figlio ad esempio abbia un'abitazione sempre all'interno dello stesso comune. In questo caso i coniugi non potranno, su quell'abitazione dove hanno la dimora abituale, usufruire della detrazione per il figlio a carico. Ecco, queste sono delle situazioni previste dalla normativa nazionale. Poi ci sono invece delle situazioni che possono vedere l'assimilazione ad abitazione principale nel caso di particolari situazioni, però questa è facoltà del comune, quindi assolutamente deve essere deliberata dal comune di residenza. Il caso più eclatante, che è stato da molti denunciato nei mesi passati, è quello dei vecchietti che stanno in casa di riposo, certo, che magari hanno una casa di proprietà, appunto una situazione pazzesca che portava appunto all'obbligo per questi contribuenti appunto a versare l'IMU sull'abitazione principale pur stando in casa di riposo. In quanti comuni si sono messi a posto, come dire, ragionevolmente sistemando queste situazioni, e hanno assimilato le case di questi contribuenti anziani appunto all'abitazione principale? Alcuni sono pochi, una statistica precisa non esiste, quindi non è possibile fare una statistica precisa, però sicuramente la normativa ci dice che se il comune non delibera questo tipo di situazione, per quanto riguarda le persone anziane che se hanno spostato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, in caso ovviamente a seguito di un ricovero permanente, in questo caso se il comune non delibera non possono usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale. E allora 800 24 00 24, per segnalarci il vostro caso, per farci le domande su temi ancora irrisolti relativi al pagamento appunto dell'IMU sulla vostra proprietà. Cominciamo a sentire Massimo da Milano. Buongiorno Massimo. Massimo? Sì. Eccoci. Senta, qua. Sì. Io vorrei fare una premessa. Noi abbiamo dei politici o della gente che non sono capaci di decidere e ci lasciano sempre nei casini, per cui arriviamo all'ultimo momento che non sappiamo cosa fare. Io ho adottato questa tattica, io pago come l'anno scorso, se pago un po' di più li conguaglierò in un secondo tempo, se pago un po' di meno pagherò. Però se loro poi a volte ti dicono ma noi ti mandiamo Equitalia, io sinceramente a me non importa, perché io sono stufo, io sono un cittadino, questi qui ti trattano come dei sudditi e io ne ho veramente pieno le scatole. Massimo, aspetti un attimo adesso, tra l'altro Mirko Mion, adesso possiamo anche magari spiegare un po' cosa è successo a Milano, ma un conto è, come dire, avere la certezza che si paga un po' di più, in questo caso il fisco indietro non può chiederti niente, nel caso in cui Massimo invece non si mette in regola per non saperne leggere né scrivere. Milano però ha deliberato. Sì, Milano ha deliberato l'aliquota massima, ecco. Quindi si è risolto il problema come dicevamo prima. Ma io proverei anche a rispondere al signor Massimo, quantomeno, non so, con gli italiani, l'incertezza. Insomma. Anche perché credo che voi come operatori del settore, insomma, condividete questa frustrazione del fatto che qualche volta, comunque qua parole già dette mille generale, volte. Esatto, io però vorrei, come dire, di nuovo lanciare un po', riprendendo, visto che nel prologo della vostra trasmissione avete fatto ascoltare il Premier Letta, io ritengo che un altro segnale però importante, oltre a quello degli acconti fiscali che slittano al 10 dicembre, sia comunque che ieri in Commissione Finanze alla Camera è stata approvata una risoluzione che chiede al governo di spostare la scadenza del saldo IMU per tutti quelli che insomma dovranno poi andare a pagarlo addirittura al 27 di dicembre. Tra l'altro è una data già segnata in calendario con il colore rosso perché sarà la giornata dei versamenti dell'acconto dell'IVA. Quindi insomma confido un po' in questo. Dall'altra parte il signor Massimo insomma potrebbe, lui come tanti italiani, appellarsi allo statuto del contribuente, l'articolo 10, no? Proprio dove in qualche modo l'incertezza salva le sanzioni, tanto è vero che l'articolo 10 segnala proprio che laddove ci sia un ambito di incertezza e di confusione sull'applicazione delle imposte, non venga poi irrorata la sanzione. Allora, andiamo ad altri messaggi dei nostri ascoltatori. È pronto anche Pietro da Genova che ci vuole porre il suo quesito, ma vorrei leggervi anche qualche altra osservazione. Ago da Genova, chissà se si chiama davvero così, ci scrive ancora: non si è fatto nulla per quelle seconde case che in realtà sono prime perché date incomodato alla mamma, probabilmente non si è deliberato nell'area in cui vive. Sarei felice di pagare i miei 70 euro sulla prima casa se chi possiede prime case di lusso pagasse i suoi 700 euro e più, ci scrive Viola. Però Radicioni, in realtà per le case di lusso tutte rimasto inalterato, loro l'IMU la pagano a conto, saldo e tutto quello che devono pagare. Assolutamente sì, vorrei rispondere eventualmente alla spettatrice che parlava di immobili concessi incomodato apparenti. Per il 2013 invece la situazione è cambiata, perché limitatamente alla seconda rata i comuni, quindi ritorniamo sempre al discorso che avevamo precedentemente affrontato, possono deliberare l'equiparazione all'abitazione principale, però ovviamente non quelle di lusso, soltanto quelle che rientrano nella categoria A, esclusi la 1, la 8 e la 9. E relativamente ovviamente anche alle pertinenze, devono essere concesse queste abitazioni a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come prima casa. Quindi per rispondere all'ascoltatrice, diciamo, questa situazione potrebbe verificarsi solo e limitatamente però al saldo della rata IMU ed esclusivamente per il 2013. Per il 2014 poi ovviamente non sappiamo che cosa succederà, come si disciplinerà la questione. E comunque per le case di lusso ribadiamo appunto che è inutile contestare questo aspetto, perché chi ha un'abitazione di una determinata tipologia l'IMU la paga. C'è invece ovviamente chi contesta il fatto di avere una tassazione applicata alla seconda casa. Natale ci scrive: certo, dice, la seconda casa bisogna tartassarla perché i soldi per comprarla li abbiamo rubati. No Natale, non è così, condividiamo anche naturalmente le contestazioni di chi magari invece di come dire, mettere i soldi da parte e avere un altro strumento di investimento e di risparmio ha preferito appunto puntare sul mattone, però guardi che anche le altre forme di risparmio e di investimento sono tartassate perché abbiamo la mini patrimoniale. E comunque ne parleremo magari in un altro momento. Allora, nelle nostre case tira ancora aria di IMU, anche se la seconda rata virtualmente è già fuori dalla finestra. Mentre ci raccontate, siete in tanti anche a scriverci questo, che aria tira a casa vostra, noi spostiamo l'attenzione dai denari al cuore, alla nostra salute, perché non c'è solo l'aria di tasse da cui guardarsi. A volte proprio quella che respiriamo in casa non è proprio la migliore del mondo. Allora, buongiorno, saluto e ringrazio subito Mauro Moci, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Dottor Moci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a voi. Ho già introdotto l'argomento del quale parleremo appunto insieme a lei. Anche l'aria di casa nostra è a suo modo inquinata, dottor Moci. Lei può già anticiparci magari brevemente questo argomento, sì, poi lo approfondiremo. Certo, certo, l'aria di casa è inquinatissima alcune volte, più inquinata di quella esterna, purtroppo, e di questo ormai ne siamo a piena conoscenza, ne è conoscenza anche l'OMS, ne sono a conoscenza tutte le organizzazioni che si occupano di salute. L'aria di casa, se non ben protetta, se non ben salvaguardata, è molto pericolosa, molto pericolosa. Quindi benissimo, dobbiamo mettere in atto qualche cosa e ne parleremo. E certo, parleremo. Riscaldarla bene, far fare naturalmente il cambiamento anche dell'aria, aprire qualche volta le finestre anche se fuori è molto freddo. Questi sono solamente dei piccoli accorgimenti, poi alcuni più professionali il dottor Moci è pronto a darcene. Adesso ci fermiamo perché abbiamo i mercati, intanto continuate a prenotare i vostri interventi sull'IMO, ma anche sulla qualità dell'aria della vostra abitazione. Che cosa fate per salvaguardarla? 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, a tra pochissimo. Cuore e denari. Lo so, Filippo Aureggi, che tu vorresti ascoltare ancora a lungo questa canzone, non abbiamo tempo questa mattina perché noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla qualità dell'aria delle nostre abitazioni. E la qualità dell'aria che tira a casa nostra non è certo migliore di quella che respiriamo fuori, perché, come accennavamo poco fa, le nostre abitazioni sono spesso troppo riscaldate. Questo è un fattore di rischio per le famose malattie da raffreddamento, perché nel passaggio tra dentro e fuori il nostro organismo non ha tempo di adeguarsi in fretta, di acclimatarsi. Ma c'è dell'altro, perché ci sono nemici che non vediamo e non sentiamo. Sono gli acari, le muffe, allergeni appunto dei nostri amici animali e tanto altro ancora. E allora cerchiamo di responsabilizzarci anche nei confronti di questo problema, e lo facciamo con un aiuto, il dottor Mauro Moci, medico per l'Associazione Medici per l'Ambiente. Allora chiamateci all'800 24 0024 se volete interagire con noi anche su questo tema. Su Facebook, al profilo di Cuore Denari, Alessandro, un ascoltatore, ci scrive: vorrei notizie sulla salubrità di incensi ed oli essenziali per profumare la casa. Ne parleremo anche tra qualche istante. Alessandra, anzi non Alessandro. Allora, dottor Moci, sull'inquinamento esterno siamo tutti sensibilizzati. L'aria è contaminata dalle polveri sottili, nuoce alla salute, causa asma, allergie, malattie respiratorie, problemi circolatori e, nella peggiore delle ipotesi, persino i tumori. Quello di cui invece non siamo consapevoli è che l'aria che respiriamo all'interno delle nostre case è molto più contaminata di quello che si crede. Per quale motivo? È vero, perché spesso noi nelle nostre case abbiamo, oltre l'inquinamento esterno che ci che riesce ad entrare, perché attraverso le finestre, anche se teniamo chiuse, ma sono le polveri sottili, sono talmente sottili che riescono ad entrare, abbiamo l'inquinamento, il famoso inquinamento indoor, che si è un po' diverso da quello esterno. Esternamente noi abbiamo spesso particolato, dentro le case invece abbiamo le famosi acari, abbiamo, come diceva lei, le muffe, e abbiamo problemi di sostanze chimiche che ci teniamo dentro casa inconsapevolmente. Adesso ho sentito parlare di incensi, dobbiamo stare attenti anche ai deodoranti, ai profumi dell'ambiente, perché spesso sono delle sostanze chimiche altamente irritanti. Allora bisogna tenere la casa in modo ben curato. E come dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto che gli acari sono micidiali perché riescono a provocare irritazione delle mucose, scatenano allergie, e questo lo vediamo sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, ma nel periodo invernale lo vediamo di più perché tendiamo a riscaldare un po' troppo le case. E questi animaletti, tra virgolette, trovano terreno fertile per crescere, per alimentarsi. Riescono a crescere di più perché l'ambiente caldo chiuso riescono. È ovvio che in quel caso diamo subito delle indicazioni, è opportuno non tenere piante secche laddove loro riescono ad attecchire, i peluche nelle camerette dei bambini assolutamente vietati, pulire bene i tappeti perché è lì che loro si annidano e si riproducono, sono degli irritanti delle mucose. È ovvio che tutto questo poi provoca irritazione alla mucosa, ai bronchi, e quindi scatena tosse e allergie. Ma di nemici ne abbiamo tantissimi e spesso sono invisibili. Poi abbiamo anche quelli visibili, e di quelli visibili sono le muffe, per esempio, le muffe che crescono nelle nostre cucine, nei nostri bagni, e in quel caso, però mediamente, per esempio, una muffa si dovrebbe combattere aumentando magari il riscaldamento, oppure è un approccio sbagliato? Allora lì siamo nella situazione in cui, per quanto riguarda il caldo, noi dobbiamo evitare di esagerare con il caldo, perché come diceva lei, poi il passaggio di temperatura repentino può abbassare le difese immunologiche. Soprattutto il caldo ha un'altra responsabilità, che secca troppo le mucose e quindi rende il nostro sistema immunologico molto più sensibile alle infezioni. Se il nostro naso è troppo asciutto, i nostri bronchi sono troppo asciutti, noi dovremmo umidificare. Io consiglio spesso di fare dei lavaggi con soluzione fisiologica nel naso dei bambini, quindi bisogna umidificare, sappiamo tutti che bisogna umidificare, mettere i famosi contenitori di acqua sui termosifoni, cercare di umidificare, però dobbiamo stare attenti, perché se umidifichiamo troppo, l'umidità facilita la crescita delle muffe e quindi ci dovrebbe essere un giusto equilibrio tra queste due cose. Tant'è che noi vediamo maggiore crescita di muffe nei bagni e nelle cucine, laddove c'è molto caldo e molta umidità, il vapore acqueo di quello che stiamo facendo. Infatti, quindi la soluzione qual è? Esatto, chiediamola per esempio a Sandro, che ci dice: in camera da letto, soprattutto in inverno, sento l'odore di muffa ma non riesco a mandarlo via. Intanto chiede se può far male alla salute, ma noi gli dobbiamo spiegare come fa a cacciarla, dottor Mocci. Sì, intanto fa male alla salute perché queste muffe sono delle spore, sono dei funghi che crescono e danno fastidio ai bronchi, soprattutto danno fastidio alle mucose, perché sono delle spore anche tossiche alcune volte, possono scatenare anche infezioni. Che cosa dobbiamo fare? Intanto alcune volte nelle camere, per esempio, è dovuto a un problema di coinventazione, cioè di isolamento termico, è una questione di troppo freddo all'esterno e troppo caldo all'interno, quindi si creano queste differenze di temperatura che consentono la crescita di queste muffe. Allora lì bisogna, se possibile, cercare di isolare termicamente dall'esterno o dall'interno quelle pareti che sono troppo fredde. Ma è ovvio, non è sempre così semplice. Esatto. che cosa può fare una normale persona? Cercare di arieggiare il più possibile quell'ambiente. Arieggiarlo significa far entrare aria, ma arieggiarlo anche dall'interno con dei sistemi di ventilazione, con dei condizionatori che possano in qualche modo mantenere un livello di umidità, di umidificando o umidificando a seconda della situazione. Quindi le soluzioni ci sono: il togliere quelle muffe, normalmente si fa, consigliano tutti di farlo con il cloro. Ecco, non è che si risolve il problema, perché noi togliamo quello strato che si è formato, però lo si attenua almeno. Attenzione invece ai prodotti antimuffa. Sono delle sostanze chimiche, per cui se si danno questi prodotti è sconsigliato dormire poi la sera lì, perché altrimenti ci respiriamo tutto quello che abbiamo messo in casa. Dottor Mocci, ho molte domande per lei da parte dei nostri ascoltatori, che naturalmente ci chiedono: intanto, chi ha un riscaldamento autonomo può abbassare la temperatura, chi invece ha quello centralizzato come la sottoscritta, e quando entra a casa la sera con le giornate fredde di Milano, sapesse che quanto mi piace quel teporino, quindi sono una che il caldo in casa lo ama molto. Però chiaramente qua ci chiedono: con quello centralizzato cosa facciamo? Apriamo naturalmente le finestre. C'è un ascoltatore che chiede: con il riscaldamento a pavimento, vuole sapere se è pericoloso per le polveri, perché anche quelli sono un po' invisibili. E le faccio rispondere a tutto questo mettendo insieme anche la domanda di Daniele da Pisa. Daniele, buongiorno. Oh no, è caduto, mannaggia, abbiamo fatto aspettare troppo. Ha ragione, l'ozono è conveniente e sicuro soprattutto in casa, dottor Mocci? A che cosa serve l'ozono in casa? No, l'ozono in casa, guardi, non è assolutamente, cioè il livello di ozono dovrebbe essere quello che è in modo naturale, non dobbiamo fasciarci e andare a creare situazioni, perché già di inquinanti dentro casa ne abbiamo abbastanza. L'ozono in eccesso dà fastidio, ma noi parliamo di inquinanti che respiriamo, ma io vorrei aggiungere, noi abbiamo adesso i wifi, anche i campi elettromagnetici, abbiamo di tutto dentro le nostre case, abbiamo purtroppo anche il fumo di sigaretta di chi ancora si ostina a fumare dentro casa e non dovrebbe assolutamente farlo. Però per rispondere alle domande che sono state fatte, tanto chi ha il sistema centralizzato può fare alcune cose, intanto umidificare, ma semplicemente mettendo, lo ripeto, quei contenitori di acqua sui termosifoni, perché è l'unico modo per umidificare un pochettino l'ambiente. E aprire quando? Nelle ore meno inquinate esternamente. Certo. Non aprirò nelle ore di maggior traffico automobilistico, perché le polveri sono in aumento, quindi se è possibile tenere una temperatura bassa, perché non serve caldissimo, perché certo, il caldo, come ho detto, irrita. Il problema del riscaldamento al pavimento è un problema, perché le polveri che si depositano al pavimento con il calore tendono a sollevarsi e quindi il calore che proviene dal basso può portare in alto le polveri che sono depositate. Ecco lì l'attenzione da fare, utilizzare degli aspiratori possibilmente centralizzati, comunque che non ributtino l'aria che aspirano, con dei filtri efficienti, perché spesso gli aspiratori, se il filtro non è efficiente, fermano il particolato grande, le cose grosse che vediamo, ma il resto riesce dall'uscita dell'aspiratore, quindi ce lo ritroviamo dentro casa. Quindi pulire con un panno umido che porti via la polvere, e allora in quel modo siamo certi che il riscaldamento a pavimento è un ottimo riscaldamento, perché dà un comfort abbastanza diffuso, omogeneo. Però bisogna prendersene cura anche, ecco, naturalmente, della nostra salute. Con i filtri dei condizionatori, mi raccomando, vanno puliti. Ecco qua. I filtri dei condizionatori vanno puliti. E infatti perché hanno bisogno di anida di tutto. Ma una manutenzione annuale. Senta, dottore Mocci, adesso la salutiamo, solamente un'ultima osservazione. Intanto ci sono degli ascoltatori che ci prendono un po' in giro, evidentemente loro hanno delle case con una qualità dell'aria eccezionale, perché non c'è bisogno di vivere con respiratore in un'abitazione tutta antibatterica, basta prendersi cura della propria casa come le nostre mamme appunto fanno, e quindi credo che già questo sia più che sufficiente a tenere sotto controllo la qualità appunto dell'aria delle nostre abitazioni. Un ascoltatore scrive che sulle muffe spruzza a mucchina e scompaiono immediatamente. Scompaiono definitivamente o solo alla vista, dottor Mocci? Sta spruzzando del cloro, e come ho detto, quel cloro uccide quelle muffe, ma se la situazione è quella, dopo un po' si riformeranno. Allora dobbiamo risolvere il problema in modo radicale, definitivamente. Benissimo. Risolvendo il problema alla radice. Certo. Come diciamo. Grazie dottor Mocci per essere stato con noi. Se ci saranno altre richieste di suggerimenti da parte sua, da parte dei nostri ascoltatori, la sentiremo più tardi, le gireremo appunto tutti i nostri commenti dei nostri amici che ci seguono da casa. Buona giornata. Sono grazie. Grazie molte. Cuore e denari. Come cavolo fai per coler l'IMU? Da due mesi quasi non ci dormo più. Ed effettivamente così, non ci stanno dormendo probabilmente i commercialisti, i centri di assistenza fiscale, perché ieri è partita anche questa vigorosa protesta da parte dell'associazione dei CAFI, centri di assistenza fiscale italiani, che dicono come facciamo a conteggiare in pochi giorni il saldo IMU, visto che molti comuni non hanno ancora deliberato, e quindi insomma c'è questa protesta molto viva, e speriamo che ne sia cosciente anche il governo, che delibererà martedì prossimo la cancellazione del saldo per chi ha una prima abitazione. Allora, tra l'altro, ritornando invece al tema della qualità dell'aria delle nostre case, c'è un ascoltatore che su Facebook ci scrive, è vero che anche le suocere hanno un impatto negativo sulla qualità dell'aria in casa, mette un emoticon sorridente. Speriamo di no, speriamo che appunto contribuiscano invece al benessere di tutta la famiglia con il loro aiuto. Ritorniamo alle nostre questioni risolte sul pagamento appunto dell'IMU e il saldo di dicembre per chi deve pagarla. Sentiamo Annalisa da Milano, a cui poi daremo una risposta, con il nostro Mirko Mion, presidente di Agefis, e con il nostro dottor commercialista Renzo Radiccioni. Annalisa, buongiorno. Buongiorno, sì, grazie. Grazie. Il mio caso è questo. Si tratta di un'abitazione piccola il cui proprietario è morto e l'abitazione sta per passare in successione a due sorelle eredi. Ora, una di queste sorelle non ha una sua abitazione e quindi per lei diventerebbe la prima abitazione. Per l'altra invece diventerebbe la terza. Quindi io chiedo come la legge chiede che si divida l'IMU in questo caso. Sentiamo se abbiamo due, grazie a lei, Annalisa, due interpretazioni differenti da parte dei nostri due consulenti. Mirko Mion, allora qua, come spalmata l'IVA su queste sorelle e le l'IMU? Allora, l'IMU su queste due sorelle, se la prima, intanto iniziamo a ricordare il concetto base del soggetto passivo che deve pagare l'IMU, che è colui che ha, è proprietario oppure che ha un diritto reale di abitazione. In questo caso, passando la proprietà a una delle due sorelle, questa prima sorella diventerebbe proprietaria di questo 50%, ma ricordiamo altresì che deve risiedere o domiciliare in questa abitazione, altrimenti non sfugge a quella che è la regola dell'abitazione principale. Quindi se la sorella che eredita, la prima sorella che eredita il 50% diventerebbe sì proprietaria di questa abitazione, dovrebbe portare anche lì la sua residenza e il suo domicilio. Mentre invece per la seconda sorella, dove l'ascoltatrice dice chiaramente diventa una terza proprietà, abitazione, qui non siamo solo nel concetto di seconda casa, ma addirittura di terza casa, direi che qui non siamo di fronte a nessun tipo di dubbio, di dilemma, di dubbio. Dovrà pagare la l'IMU sul 50% del calcolo fatto con l'aliquota sul calcolo della base imponibile generata dalla rendita. E allora? 5% per 160, come classicamente abbiamo fatto tutti i conti nelle trasmissioni precedenti. Infatti. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Io veramente stamattina non so come farò ad accontentare tutti. Dottora Diccioni, non ho una prima casa, ma due seconde case. Dove abito è di mia suocera, ci scrive Sergio da Pavia. Con la separazione dei beni fra me e mia moglie, posso portare la residenza della mia seconda casa in Liguria a farla diventare prima casa e non pagare l'IMU? Spero in una vostra risposta positiva, ci scrive Sergio Radicioni. Ha capito? Lo devo riscrivere, devo ripetere il quesito. Mi può ripetere il quesito? Allora, non ho una prima casa, scrive Sergio, ma due seconde case. Dove abito è di mia suocera. Con la separazione dei beni fra me e mia moglie, posso portare la residenza della mia seconda casa in Liguria nella mia credo e farla diventare prima casa per non pagare l'IMU? Ma bisognerebbe anche dimostrare la dimora abituale. Esattamente, quindi, infatti quindi, lei che volevo diciamo, pizzicarlo. Quindi diciamo questo la vedo una soluzione poco probabile. Sicuramente potrebbe essere invece più percorribile la strada legata alla situazione che dicevo in precedenza per quanto riguarda l'immobile dato in comodato d'uso gratuito. Se eventualmente fosse registrato questo contratto, quindi di comodato d'uso gratuito tra la suocera e eventualmente lui, diciamo il genero e la moglie, in questo caso potrebbe per il 2013, poi non si sa che cosa succederà per il 2014, risultare come abitazione principale. Quindi questa è l'unica soluzione possibile che può adottare il nostro ascoltatore appunto di Pavia. Intanto altri ascoltatori ci stanno ancora raccontando e stanno cercando di renderci partecipi dell'odore che hanno in questo momento nelle loro abitazioni. C'è chi ci scrive che ha, come Monica, profumo di biscotti, meraviglioso, per l'aria tesa a causa mobilità di mio marito. Monica, e noi con affetto salutiamo sia lei che il suo consorte, finestre accostate fino all'ora di pranzo a 19 gradi di giorno e 16 di notte. Un altro ascoltatore, Gianni da Roma, ci scrive: invece ho lasciato a casa un'aria di letale amore, mia moglie ha una cagnolina affettosissima a cui però sono allergico e quindi campo vivo appunto anche in compagnia di questo cane grazie agli antiallergici. E allora tra l'altro tra un po' spiegheremo anche che cosa si può usare, a parte tutti gli accorgimenti che ci ha spiegato prima il nostro medico dell'ambiente appunto, ma quali altri accorgimenti possiamo utilizzare per rendere l'aria delle nostre abitazioni più salubre e soprattutto più piacevole? E ci darà qualche indicazione un medico nutrizionista che abbiamo già avuto il piacere di sentire qualche giorno fa. Lo risaluto, il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Dottor Temporin, bentornato. Buongiorno Deborah, grazie. Un saluto a tutti. Grazie molte, naturalmente siamo già pronti qua a sentire cosa ci potrà appunto suggerire per avere una sensazione di odore gradevole quando si entra in casa, ma purché il prodotto che utilizziamo non sia dannoso per la nostra salute. Gliela faccio già allora una prima domanda, perché un'ascoltatrice, Alessandra, voleva chiedere notizie sulla salubrità degli incensi ed oli essenziali per profumare la casa, perché ha letto alcune indagini in cui ci sono dei commenti molto negativi su queste sostanze. sostanze, ma bisogna capire a quale tipo di sostanza appunto facciamo riferimento. Come facciamo ad avere un buon incenso, un buon olio appunto da portare nella nostra abitazione? Vabbè, allora diciamo bisogna sempre controllare il prodotto da dove deriva e quindi possibilmente che sia acquistato magari in erboristeria o in farmacia, in cui gli oli essenziali sono titolati, concentrati nella giusta composizione. C'è da dire anche che soggetti allergici, e purtroppo ce ne sono sempre di più devono star lontani da oli essenziali e anche da incensi. Benissimo, allora per altri dettagli su questo argomento ci risentiamo fra qualche minuto. Intanto mi stavo così un po' distraendo con alcuni ascoltatori che addirittura sul tema di questa mattina ci stanno mandando delle vignette, non solo messaggi, non solo richieste di intervento con quesiti sull'IMU, ma addirittura anche qualcosa in più. Quindi vi ringrazio per tutta la vostra partecipazione. Adesso faccio prendere una pausa sia al dottor Temporin, sia a Mirko Mion che a Renzo Radicioni, perché abbiamo il giornale radio. Chiedo solo pazienza a Raffaele da Roma. Raffaele, ci sente? Mi sento. Ha pazienza di aspettare 10 minuti, me la sono portata un po' alla lunga. La richiamiamo tra un attimo. Grazie, a tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari. Allora, se le tasse sulla vostra casa vi rendono qualche volta anche un po' la vostra abitazione indigesta, anche se la amate tanto, l'avete arredata al meglio e ve ne prendete cura, e allora c'è qualcosa che può farvi sentire meglio. Lo sapete che per esempio la vaniglia come odore può ridurre l'ansia e lo stress? Lo sapete che per esempio le erbe il gelsomino può combattere l'insonnia, quindi addirittura qualche cosa di aromatico che abbia questo odore può aiutarvi a combattere anche appunto le difficoltà nel prendere sonno. E anche di tutto questo parliamo tra poco. Essere e benessere. Sai, io avverto una fragranza nell'aria. Non mi dica che cos'è. Sapone o ghilvesista? È impressionante. Beh, impressionare è il mio mestiere. È proprio sapone o ghilvesista. Mia nonna me l'ha regalato giorni fa per il mio onomastico. Ah, è adorabile sua nonna. Un film meraviglioso, Profumo di donna, nella versione con Al Pacino. E allora, che aria si respira nelle vostre case? Dall'intervento nella prima parte della trasmissione del dottor Mocci stanno ancora arrivando molti messaggi che vi invitiamo a continuare a scriverci, perché poi li gireremo a lui e commenteremo insieme a lui anche gli odori delle vostre abitazioni, soprattutto quelli problematici provocati dalle muffe, oppure l'esistenza che avete dimostrato appunto di acari nel vostro materasso. Come li possiamo combattere? Chiederemo a lui qualche suggerimento, chiaramente per voi in privato. Parliamo però adesso anche di quelle soluzioni che possiamo adottare per rendere l'aria nelle nostre abitazioni più piacevole, e puntiamo quindi sul benessere. Ci aiuta, come vi ho presentato in apertura, il dottore, in apertura prima della chiusura della prima parte di Cuore e Denari, il dottor Temporin, che dopo il successo della sua tisana antiraffreddamento è tornato appunto a grande richiesta a trovarci. Adesso lo risalutiamo, ma intanto potete anche continuare ad inviare i vostri quesiti sul saldo IMU che dovete versare entro qualche settimana, e sono rimasti ancora con noi Mirko Mion e Renzo Radicioni per rispondervi. Dottor Temporin, eccoci a lei. Sarà capitato anche a lei qualche volta di entrare in una casa di qualche amico, di qualche parente, e di trovarsi magari avvolto da un piacevole profumo, di avvertire anche una sensazione piacevole, anche di familiarità? Può essere un profumo di una torta di mele, a me piace molto il caffè per esempio quando entro in una casa di un'altra persona, l'aria può sapere di vaniglia o di gelsomino, gli odori qualche volta generano anche delle risposte fisiche oltre che emotive e mentali positive, e possono giocare anche un ruolo cardine nel mantenere il cervello e il corpo attivi e sani. È così? Sì, Deborah, effettivamente è così, perché gli oli essenziali vengono utilizzati in quel principio denominato aromaterapia, il quale permette, attraverso l'uso appunto degli stessi oli essenziali, di ottenere dei benefici sia a livello psicologico, sia a livello mentale, ma anche a livello fisico. Senta, per abbattere un po' la depressione che ci arriva da questa incertezza normativa che ancora non ci permette di capire quanto pagheremo di IMU a metà dicembre, che cosa possiamo utilizzare? Allora, la depressione da tasse la possiamo combattere con un olio essenziale? Adesso io sto scherzando naturalmente, ma magari può anche aiutarci, perché no? Ci possiamo provare. Per esempio lei citava ovviamente la vaniglia, la quale oltre a togliere la tristezza dà anche un effetto un po' euforizzante. Ecco, assieme alla vaniglia noi possiamo utilizzare il bergamotto oppure l'olio essenziale di verbena. Questo va anche ad allentare quelle tensioni muscolari che noi abbiamo dovute ovviamente alle contratture da tensione, anche da pagamenti da dover effettuare. Certo. C'è da dire che questi oli essenziali noi possiamo utilizzarli nella nostra casa attraverso delle lampade, che sono delle lampade definite brucia essenze, che possono essere di due tipi, nel senso che vi possono essere quelle utilizzate con la candela, che brucia quindi l'olio essenziale e lo fa vaporizzare nell'ambiente, oppure vi sono, magari sono un po' più sicure, quelle ad ultrasuoni, le quali emanano questo olio essenziale sempre all'interno della nostra casa. Mm-hmm. No, tra l'altro, dottor Temporini, stavo così pensando, sa com'è, io sono la donna di denari e mi vengono sempre in mente un po' le ricerche, le statistiche. Quali sono gli odori preferiti dagli italiani? Esistono degli studi su questo, quelli che sono un po' più, come dire, che assomigliano di più proprio all'italiano, no? Adesso è chiaro che la vaniglia, il profumo di biscotto richiama, quindi magari è quello che ci può piacere un po' di più, ma esistono delle preferenze più gettonate rispetto ad altre? Sicuramente le preferenze che vengono più richieste sono quelle che possono riportare magari a delle sensazioni avute in alcuni momenti collegate alla felicità, quindi certo. Possono essere anche odori che richiamano l'infanzia o che richiamano dei momenti in cui si vive in famiglia, come dicevamo prima, l'odore del caffè che dà la sensazione della famiglia assieme che si prende il caffè dopo pranzo. Ecco, queste profumazioni ovviamente vengono molto ricercate e ovviamente il loro stimolo a livello olfattivo poi ci dà dei buoni pensieri. E questi sono, per esempio, leggo dagli appunti che lei ci ha mandato, dottor Temporin, la tuberosa, il giacinto, il giglio selvatico, la lavanda possono indurre rilassamento e sensazioni di felicità e magari richiamarci appunto a momenti felici. Allora, devo ritornare alle nostre amenità legate alla tassazione sulla casa, dottor Temporin, e poi ho delle domande per lei da parte degli ascoltatori, ma ritorniamo invece a questa tematica e sentirei Vittorio da Pescara, il nostro ascoltatore da Roma, poverino, ho fatto aspettare, adesso magari lo ripeschiamo. Vittorio da Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci qua, lei. Chiamato. Grazie a lei. Ci dica. Allora, mia figlia risiede in Svizzera, è iscritta all'Aire, ha in proprietà la prima casa in provincia di Pescara. Mm-hmm. Ho pagato la prima rata IMU, col decreto Letta mi conferma che non dovrebbe pagare la seconda rata. Aspetti, e in più vorrei chiedere se è così, se posso recuperare la prima che ho già pagato. Allora, no, mi scusi un attimo, non ho capito in virtù di che cosa ha pagato l'acconto, perché sua figlia... L'acconto l'ho pagato... Perché il comune non mi ha saputo dire l'esenzione? Sì. Aspetti lì, sentiamo se i nostri interlocutori hanno bisogno di chiarimenti. Renzo Radicioni, vengo subito da lei. Una figlia che ha una casa di proprietà, ma attualmente vive in Svizzera, regolarmente iscritta al registro dei residenti all'estero, all'Aire. Come deve comportarsi con l'IMO sulla sua abitazione? Allora, assolutamente quello che il radioascoltatore ha esposto ha subito una tassazione che a prima vista sembrerebbe corretta. Perché questo? Perché l'eventuale esenzione, quindi la situazione della figlia, possa essere assimilabile all'abitazione principale, quindi al possesso dell'abitazione principale, deve essere deliberata, è una delle ultime situazioni che avevamo inquadrato inizialmente, deve essere deliberata dal comune. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se la figlia ha un'abitazione qua in Italia, ma il comune non ha deliberato l'assimilazione all'abitazione principale, questa subisce la tassazione come un'altra abitazione. Quindi bisogna anche considerare un altro aspetto, che l'abitazione posseduta qua non deve essere locata, deve essere libera, quindi la deve possedere e basta, quindi non deve essere locata, perché qualora venisse locata allora... Deve pagarci appunto tutta la tassazione di pertinenza. Tra l'altro Mirko Mion, adesso io non so se questo è un suggerimento corretto da dare ai nostri ascoltatori, visto che abbiamo ovviamente dei casi individuali a cui è difficile dare una risposta sulla base della normativa nazionale. Se qualcuno ha un dubbio sulla propria condizione, è bene che vada a rivolgersi immediatamente al proprio sindaco, al proprio comune, per avere una chiarezza. È inutile che va a guardare come funziona la normativa nazionale se poi ci sono chiaramente dei comuni che su certe questioni devono deliberare, appunto, non so, un suggerimento sbagliato Che dice? No, è un suggerimento corretto, rimaniamo sempre nel problema iniziale, quello che mancano 4.000 comuni all'appello, sulla delibera, e come diceva correttamente il dottor Radicioni, dovranno intervenire proprio sulle delibere con la normativa che andrà a legare, quindi ad assimilare una serie di casistiche all'abitazione principale e quindi alla loro esenzione. Io ricordo anche questo, diciamo che in questa imperante confusione è importante ricordare il concetto di abitazione principale, quello che dicevamo poco fa, è importante ricordare il numero massimo di pertinenze, perché il rischio vero in questa situazione è che molti ritengono, con queste voci che si rincorrono, di essere esenti. Ora, quindi, oltre al comune, io direi che potrebbe essere una cosa buona verificare la propria posizione, la posizione del proprio immobile presso uno studio di un geometra che, come abbiamo sempre detto, ha una peculiarità della conoscenza della casa. Mi permetta anche, perché il tema è cuore e denari, lei fa la donna di denari, io faccio l'uomo di cuore. Addirittura, la conosciamo anche in questa versione inedita. No, ma ci fa piacere. Perché mi fa piacere segnalare in questo argomento in cui effettivamente la casa non risulta soltanto, come dire, una problematica legata al comparto fiscale, dove la categoria dei geometri è molto attenta, ma parte il primo corso per il geometra esperto dell'edificio salubre a Zellarino, Venezia, il 4 e 7 dicembre. Quindi, insomma, la categoria è molto una forte attenzione. Diciamo che è casa centrica, ecco. Bravo. È immobile centrica. Senta un po', ma se qualcuno volesse iscriversi a questo corso, avete già chiuso le adesioni? Sono chiuse le adesioni, sono state tra l'altro istituite anche 4 borse di studio, perché ci sono molti giovani, molti ragazzi che si stanno avvicinando a questa tematica, perché come ascoltavo con grande interesse il dottor Moci e il dottor Temporin, insomma, l'inquinamento acustico, l'inquinamento anche dei wifi, ma soprattutto l'inquinamento anche comunque legato a quello che è il posizionamento dell'edificio rispetto a quelle che sono le falde acquifere o altri elementi che comunque... E poi non ci dimentichiamo... non ci dimentichiamo anche di tutti gli incentivi fiscali che sono indirizzati alla qualità, al consumo energetico delle nostre case, no? E quindi, insomma, abbiamo proprio molto ben presente questo problema, ce l'hanno anche gli italiani che vogliono chiaramente una bella casa. Il geometra nella sua poliedricità, quindi il geometra fiscalista e anche questo tipo di attenzione riguardo alla combinazione, al binomio dell'utilizzo di quelle che sono gli sgravi fiscali per poter mettere non soltanto in sicurezza, non soltanto per migliorare l'aspetto estetico della propria abitazione, ma per potergli dare una maggiore salubrità. Esattamente, la qualità della vita degli italiani è il nostro problema, la nostra priorità. Allora, siete in tantissimi a scriverci sull'IMU, Mirko Mion ci ha sempre aiutato a rispondere anche in privato ai nostri ascoltatori, per cui, siccome non vi accontenteremo tutti quanti, anzi siete in tanti, probabilmente ne accontenteremo solo una microscopica parte, scriveteci a cuoredenari@radio24.it e i nostri esperti sono a vostra disposizione appunto per tutti i vostri quesiti più complessi. Per esempio, c'è un ascoltatore che scrive, e questa domanda la giro al dottor Radicioni: abito in provincia di Belluno, il mio ex marito è andato a vivere nella casa della mamma che è scomparsa lo scorso anno, noi eravamo separati in casa, abbiamo la casa principale al 50%, dottor Radicioni intanto ha preso appunti? Sì. Vorrei sapere se il mio ex deve versare il 50% di sua competenza come seconda casa o viene calcolato come prima casa per noi al 100%. Allora, bisogna prima di tutto capire se la casa è stata assegnata interamente all'ex coniuge, quindi questo qua è un primo aspetto da verificare. Qualora la casa fosse stata assegnata alla moglie, quindi interamente alla moglie, in questo caso l'assegnataria risulterebbe avere la possibilità di detrarsi l'abitazione come abitazione principale. In caso contrario, invece, ovviamente potrà soltanto usufruire, dovremmo vedere chi che sono i proprietari e chi che sono i residenti e dimorano abitualmente nella casa. Quindi diciamo, questo è un requisito essenziale da verificare a monte prima di andare ad effettuare ogni tipo di risposta. Prima di sentire Adriano da Bergamo e Mario da Livorno all'800240024, dottor Temporin, senta che cosa fa Luigi, un nostro ascoltatore che ci scrive invece al 349-238-6666. Io uso alloro, lavanda e rosmarino in base alla stagione. Il primo purifica, il secondo rinfresca, il terzo rinforza. Uso i rami appesi o in cesti. Ha sentito Luigi? Come si è organizzato e attrezzato a casa sua? Dottor Temporin. Sì. Ho sentito ed è molto interessante. Diciamo che l'aromaterapia comunque ha vari aspetti che possono essere utilizzati. Io prima parlavo dei bruci essenze, ma l'olio essenziale può essere utilizzato anche per massaggi e può essere utilizzato anche per pediluvio o quant'altro in varie parti del corpo. Ovviamente, essendo una terapia, è sempre consigliabile ovviamente chiedere al proprio medico. Non fare da sé, ecco. Quindi anche in questo campo bisogna utilizzare anche gli oli con moderazione, fare attenzione a quello che magari un po' ci irrita le mucose, come dicevamo prima, oltre a quello che naturalmente ci dà un gran benessere. Bisogna provarne un po'. Assolutamente sì, e comunque utilizzare sempre oli FUI, quindi che sono regolati dalla farmacopea ufficiale italiana, quindi sono garantiti come titolo d'olio essenziale. Senta, io ho letto tra i suoi suggerimenti che le erbe possono indurre l'appetito. Ci dà invece un olio essenziale che ce lo placa un attimo, per me che sono sempre affamata, ma che cosa devo fare? Oltre chiaramente a mettermi magari un bavaglio ed evitare, ecco, che c'è qualche cosa che ci può tranquillizzare l'appetito? Placare lo stimolo della fame? Allora, direttamente, più che un olio essenziale specifico per lo stimolo della fame, ci può essere un olio essenziale che aiuta come rilassante, che agisce anche a livello ovviamente somatico. Esatto, perché qualche volta la fame è un po' isterica, parliamoci chiaro, quindi bisogna tranquillizzarsi prima di tutto. E poi? Esatto, quindi io consiglio eventualmente l'olio essenziale di melissa. Ah, eccola là, sì, forse ce l'ha data anche l'altra volta che è stato nostro ospite, vero dottore, se non ricordo male, quindi quello è un po' la panacea per tutto lo stress che generalmente caratterizza le nostre giornate. Rapidamente ancora un paio di domande sull'IMU, poi stiamo appunto salutandovi, vediamo un po' Mario da Livorno, rapidissimo, grazie, quindi ne giriamo una Mion e una Radicioni. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio della trasmissione. La mia domanda era questa: dunque, io abito in una seconda casa con un comodato di uso gratuito. Sì. Volevo sapere se era tassabile o no, oppure dipendeva dal comune. Mario, così, come dire, se io non ho proprio capito, se ho capito qualcosa del trattamento fiscale della casa, Mion è il comodato d'uso? O... Il comodato d'uso gratuito non è assimilabile a quello cosiddetto diritto reale, quindi... Paga, Mario, mi spiace. Nella seconda abitazione. Secchi e sintetici, la risposta non ha, come dire, margini di discrezionalità e di interpretazione. Adriano da Bergamo, buongiorno, l'ultima domanda è per lei. Grazie, buongiorno. Rapido? Volevo portare a conoscenza di un'ingiustizia da parte delle tante leggi. Esatto. Un divorziato come me, che ha la sventura a questo punto di essere proprietario della casa matrimoniale in comproprietà con la ex moglie. Adesso quasi riuscirei a comprare un appartamento vecchio, ma per me una però casa rapidamente nuova. La casa prima è stata assegnata alla moglie e lei la paga l'IMU come se fosse la sua seconda casa, se compra quest'altra. Io voglio anche le agevolazioni della prima casa, non posso neanche usufruirne perché Adriano, devo chiudere purtroppo, siamo in chiusura. Radicioni, vogliamo commentare in 10 secondi questo caso? Purtroppo non è che possiamo fare molto. Grandi cose. L'unica cosa è bisogna capire se la casa è stata assegnata all'ex moglie oppure no, questa è la cosa più importante. Sì, è quello che ci ha detto, sì, e quindi lui è un pochettino sfortunato. Eccolo là. La Radicioni, grazie per essere stato con noi, così come ringrazio Mirko Mion che tempesteremo di tutte le nostre mail, grazie anche al dottor Temporin che ci ha dato tanti preziosi suggerimenti per rendere appunto più gradevoli le nostre abitazioni e soprattutto non dannose ovviamente nelle profumazioni che utilizziamo per la nostra salute. È una trasmissione molto bella, scriveteci, noi ritorniamo con Nicoletta Carbone lunedì, grazie a tutti e buon weekend. Cuore e denari.